Ed eccoci tornati su Radio Bawalla, qui in compagnia di Federico Andreoli, una persona che è arrivata. E io pensavo, sai, Marco, stamattina abbiamo visto atleti di tutti i tipi. Quando arrivava uno con la muta, vestito da canoista, Potevi intuire che faceva. Quando è arrivato Federico, io l'ho guardato e ho pensato che facesse il panettiere. Come mai? Ah, perché è completamente ricoperto di farina bianca. Adesso ci andiamo a presentare. Allora, ciao Federico. Ciao a tutti. E, allora, non è farina, immagino, quella che porti sulle mani, sui pantaloni, dappertutto. No, beh, certo, è magnesite. Magnesite. Sì, che serve in pratica per asciugare dal sudore le mani. Sì. Perché oggi ho gareggiato nel boulder. Sì. Che è una specialità dell'arrampicata. E appunto spero di essermi qualificato. Adesso non voglio dire niente, però si spera. Incrociamo le dita, sì, e facciamo gli scaramantici, non diciamo niente. Certo. Ascolta, ma... Ascolta, il boulder, questo sconosciuto. Certo. Proprio per spiegare a chi non ha mai sentito parlare di questa disciplina, in cosa consiste? Una parete di roccia, un masso? Sì, diciamo che ci sono due tipi di boulder. Quello che si fa all'esterno, cioè in dei blocchi di roccia. Sì. In cui si scala e appunto si cade su dei materassi che ci si porta in pratica sulle spalle da casa. E invece qua nelle strutture invece artificiali, sì, ci sono questi materassi, sono dei percorsi molto duri e si cade appunto sul materasso e lo si può provare quante volte si vuole. Il fatto della caduta è importante, nel senso che con la caduta termina... Certo, il tentativo. E in pratica lo scopo è riuscire a prendere la zona oppure il top, che significa appunto riuscire a chiudere... Raggiungere il punto più alto. Certo. Dopodiché lasciarsi andare e chiudere la gara, sì, nel più breve tempo possibile. Più o meno, diciamo che quello spetta un'altra specialità dell'arrampicata, che è la velocità, sì, in cui bisogna fare un percorso il più velocemente possibile. Invece nel boulder bisogna cercare di chiuderlo sostanzialmente. Ah, ho capito. Ma è quello che praticamente hai un tot di tempo per vedere il percorso, poi si va tutti dietro. E poi a un certo punto si parte, c'è chi fa ta ta ta ta ta ta, in un attimo è suo, e invece c'è chi cade giù come una pera. Quello sarà domani, appunto, perché oggi è stata un di stile raduno, quindi tutti potevano vedere gli altri scalare. Invece domani si farà una ricognizione sul blocco e si scalerà da soli, quindi ognuno dovrà pensare il metodo per fare il blocco al modo che preferisce, cercando di arrivare più alto. Invece oggi tutti hanno potuto guardare e scalare insieme. Benissimo, benissimo. Ci dicevi che in realtà per te il boulder oggi è solo un diversivo, un divertimento, perché in realtà la tua disciplina, visto che tu sei un atleta della nazionale italiana giovanile, è il lead. Sì, certo, è la scalata con la corda, quindi sono percorsi più lunghi in cui si utilizza la corda e quando si cade appunto si viene trattenuti dalla corda. Per fortuna, direi, per fortuna. Direi di sì. Beh, certo. Quante volte ti cade? Ti capita? Beh, di cadere quasi sempre. Quasi sempre. Beh, certo, perché ovviamente i percorsi sono molto difficili, allora bisogna provarli un po' prima di riuscire a chiuderli. E comunque diciamo che dopo vari tentativi magari riesco a chiuderlo. Ho capito. Benissimo. Allora, che dire, ti ringraziamo molto di averci spiegato qualcosina di più riguardo a questa disciplina e ti auguriamo di essere passato alla qualificazione. Grazie mille. Ringrazio anche la Revolution, che è il mio sponsor, per, sì, appunto l'appoggio. E grazie al mio allenatore Alberto Gnero, che è il tracciatore della gara. Sì. Buona giornata a tutti. Va bene. Non mi stancherò mai di ricordare che tutto quello che avete ascoltato in questo momento in diretta lo si può ascoltare anche su www.radiobawalla.net. Si possono scaricare i podcast. E che dirvi? Adesso ancora una cosa magari sulla musica. Lo sai, Federico, noi praticamente divulghiamo e trasmettiamo solamente musica Creative Commons. Quindi su questa radio non si sentirà mai un pezzo convenzionale che già conosci. Sono pezzi che gli artisti decidono di dare gratuitamente al mondo di chi vuole scaricarli, ascoltarli, distribuirli. E quindi noi li utilizziamo per questa radio. Certo, complimenti, non è comune. Bene, avevi mai sentito parlare del Creative Commons? No, non avevo sentito, però una buona occasione per... È interessante, te lo consiglio per una cosa. Immagino che tu sia un giovane sportivo e quindi faccia dei tuoi video ogni, sì, tanto, certo, vero? Allora, se hai bisogno di mettere una colonna sonora al video, a volte non si sa mai cosa mettere perché c'è la questione dei diritti, si ha, e magari un pezzo ha dei diritti e quindi potrebbe costare metterlo. Benissimo, basta andare a prendere un pezzo Creative Commons e questa cosa è assolutamente legale, si può fare. e puoi utilizzarlo in questo modo. Buono sapersi. Bene, ti ringraziamo. Grazie mille. Ci ascoltiamo un bel pezzo di chi, Marco? Sceglielo tu per noi. Ma io... Bello, Total Breakdown. Esatto, io prenderei uno dei nostri artisti preferiti, Brad Sachs. E ci risentiamo dopo con un altro ospite, tante novità, tante cose qui dallo stadio della Canoa. Ciao. Ciao.